a cui ho lavorato tantissimo, nel senso che ci ho messo circa 3 anni e mezzo a completare l'operazione. È un lavoro storico che riparte dal 1947 fino ai nostri giorni e che ricostruisce un po' i rapporti tra mafia e chiesa in tutto questo arco temporale. Per realizzarlo mi sono appoggiato anche alla recitazione di Pippo Del Bono, che interpreta vari personaggi all'interno del film, e ho utilizzato le illustrazioni animate di Nico Bonomolo, che ha fatto un lavoro eccellente sulla della di grafica. Attraverso appunto dal 1947, con l'arrivo del cardinale Ruini a Palermo, che è un cardinale che veniva dal nord e che ignorò completamente l'esistenza della mafia per tutto il suo ventennale in cui fu arcivescovo, e poi prosegue ovviamente tutto il percorso attraverso varie esperienze dal cardinale Pappalardo, che fu il primo finalmente ad accorgersi che esisteva la mafia, anche se poi a un certo punto si chiuse nel silenzio, fino ad attraversare gli anni bui delle guerre di mafia, la prima e la seconda guerra di mafia, e arrivare ai nostri giorni fino a Papa Francesco, che ha rappresentato una rottura molto significativa sul tema mafia e chiesa. Come era nato il progetto? Nasce come una serie. Sono cresciuto a Palermo negli anni più bui, forse del periodo delle guerre di mafia, prima poi di trasferirmi a Roma ormai da tanti anni, e la cosa che mi lasciava sempre perplesso era questo atteggiamento della Chiesa, che malgrado ci fossero dei preti straordinari nelle borgate della città, questa Chiesa che continuava a mantenere un silenzio tombale da un lato, e essere in alcuni momenti anche connivente con delle situazioni, bastava guardare le feste popolari religiose in cui i mafiosi si mescolavano ai credenti, era veramente surreale. E allora, dopo tanti anni che faccio questo mestiere di documentarista, insomma, mi è venuta voglia di cercare di raccontare tutto ciò, e l'ho fatto attraverso una serie di 6 puntate che ancora deve uscire, speriamo uscirà presto. E l'idea poi è stata quella di chiudere tutto questo progetto ormai enorme, ma si è sviluppato in questo quasi 4 anni, con un documentario che ovviamente è un linguaggio più consono alle mie corde. Insomma, questo così nasce. Il documentario lo presento in anteprima a Palermo nel marzo di quest'anno, poi ho avuto adesso delle piccole vicissitudini, abbiamo cambiato il nome del documentario perché c'era una sovrapposizione con un altro film che aveva lo stesso nome, di cui ci siamo resi conto solo purtroppo adesso. Come hai scelto i tuoi interlocutori e interlocutrici? Io volevo raccontare il film anche attraverso ovviamente la Chiesa, il più possibile, perché mi sembrava corretto. Quindi ho cercato innanzitutto dei referenti all'interno della Chiesa, e devo dire ho trovato soprattutto i 2 arcivescovi che sono presenti nel film, di una disponibilità incredibile. Vabbè, ovviamente sapevo già che c'era una grande disponibilità di alcuni preti cosiddetti di frontiera, che hanno esercitato il loro mandato a Palermo e che comunque hanno rappresentato dei simboli della lotta antimafia all'interno della Chiesa, come Padre Fasullo e tanti altri. E poi ho cercato ovviamente di coinvolgere quelli che erano alcuni dei referenti di quel periodo storico drammatico. Quindi il film l'ho scritto con Francesco Lalicata, che è sicuramente uno dei maggiori esperti di mafia siciliana, ha attraversato la storia della mafia negli ultimi 60 anni e quindi mi sono appoggiato a lui moltissimo da questo punto di vista. E poi ho cercato di coinvolgere magistrati, esperti di mafia, antimafia e così via, dalla dottoressa Dino, che aveva scritto un libro stupendo su questo tema. Insomma, mi sono appoggiato un po' a tutte quelle realtà che ritenevo vari. Ovviamente avrei voluto tantissimo intervistare Papa Francesco, però purtroppo, malgrado le varie richieste che ho fatto, non sono riuscito a farlo. E questo ha modificato leggermente il progetto. Viene fuori un mosaico che mostra comunque 2 poteri che non si danno fastidio l'un l'altro quando non sono intrecciati. È proprio così, la scelta è quella di non darsi fastidio, anzi, a volte in alcuni momenti anche di darsi forza l'un con l'altro, nel senso avere le chiese piene da un lato ed essere riconosciuto come entità nei quartieri popolari, era il loro gioco molto spesso, per cui il prete preferiva avere le chiese piene e avere i finanziamenti delle feste popolari provenienti dalla mafia, e il capomafia veniva riconosciuto come ovviamente un referente importante del quartiere, quindi faceva comodo un po' a tutti questo livello basso. Dopodiché a un certo punto anche la Chiesa reagisce in modo serio. Il cardinale Pappalardo, quando si rende conto che la mafia stava cominciando a degenerare nel senso di uccisioni, comincia a uccidere i cadaveri eccellenti quasi tutti i giorni, si si rende conto che non c'è una reazione da parte né della Chiesa né della politica, quindi richiama tutti in qualche modo a un'attenzione maggiore rispetto a questo, ma anche lui ovviamente questi richiami che fa in modo molto forte durante le omelie, a un certo punto viene zittito, insomma invitato al silenzio, probabilmente a detta di molti anche preti, non si sa se è invitato al silenzio dai vertici del Vaticano o se dato il silenzio dalla parte della mafia, probabilmente da entrambi gli aspetti, e bisogna aspettare a lungo prima che si risvegli di nuovo la Chiesa. Sì, ci sono stati dei passaggi fondamentali con Papa Wojtyla nella famosa omelia di Agrigento in cui urla contro i mafiosi, però quello rimane un momento a sé stante, perché nel momento che tutti ci aspettavamo che ci fosse un cambiamento radicale nella curia, sistema Chiesa, in realtà quello rimane solo un episodio e bisogna aspettare Papa Francesco per avere un cambiamento e avere proprio scomunica dei mafiosi, che era il primo atto che la Chiesa avrebbe potuto fare già tanti anni fa e che invece arriva solo da pochi anni. Ma anche questo oggi non pensiamo che sia del tutto cambiato, cioè nel senso il cambiamento è forte, ma è forte perché è cambiata la mafia, abbiamo bisogno di referenti all'interno della Chiesa, ed è cambiata la Chiesa, dall'altro lato con Papa Francesco, che però ha provato per esempio a costituire una commissione per portare la scomunica su degli atti ufficiali della Chiesa, affinché lavorasse a questo, la commissione si è bloccata e si ritiene di fatto come se fosse sciolta, e quindi si è fermato nuovamente tutto. Quindi come vediamo l'argomento è molto complesso, molto delicato, e affrontarlo non è stato facile, devo dire è stato molto molto molto difficile cercare di dare un montaggio anche al film che rendesse giustizia di tutto il lavoro che c'è stato in questi anni. Il documentario Nel nome del silenzio, la Chiesa e l'ombra della mafia, a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, martedì 1 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Antonio Bellia. A presto! A presto Federico, grazie, grazie di tutto, e vi do appuntamento a martedì 1 ottobre al Nuovo Cinema Aquila. Tra l'altro ho dimenticato di dire che all'appuntamento del Nuovo Cinema Aquila sarà presente anche Pietro Grasso, ex presidente del Senato, e Francesco Lalicata, coautore del film, e presenterà Vincenzo Vita, presidente dell'APOT. Grazie e a presto. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.